Hola, hola, c'è qualcuno qua? Attenzione, Ratta Pignara, se sei all'ascolto, cambio. Chi è? Avanti. Hola. C'è qualcuno qua sul 10? Mattina soleggiato, però dopo verso la una dice che si annuvolava. Infatti nuvoloso. E Marco non si è sentito? No, non ho sentito nessuno che laggiù sopra se ne andava. L'ho chiamato poco fa, ma Nisba. Sì, deve essere ancora in avaria. Ma ti immagini, l'avevi comparato un orso di forse di denti a Lugano, no? Vi l'ha giudato. E l'ha giudita a mia moglie di, cioè, prendi di l'osso e dallo a me che me la mangio io. Attacca a ringhiare il cane. Tutto comprendi. No, ma che? Se ne può di l'osso il cane. Non va bene. Non va bene. Ma l'ha capito, lì non è, è andata poco a poco a tuccarlo, a pigliarne di rosso. Oi oi oi, cazzo la ringhiata. Per forza, stai prendendo a mangiare, tu vuoi scari che ci sono, dove c'è qualche temporale in arrivo. E anche tu c'hai i disturbi, no? Ma la grande, scariche elettrostatiche. Eia! Aspetta che attacco lo strumento, vedo come arrivi oggi. Buongiorno, Anzi, buonasera, diciamo. Ciao, fra. Cazzo, arrivi tu pure voci in oggi. Segnale 9, si conta che questo segna... è molto tirchio, è molto avaro, quindi sei 9 è pieno. E arrivi più forte di tutti, io dicevo più forte, io 9-10. Ma ripeto, questo è un segnale molto, come dire, molto buono, perché è molto avaro questo smitter. Tu più che Claudio mi arriva segnale 3-4. E anche questo è avaro. A quanto mi stavano dicendo, è avaro come smitter, anche questo. Però io sto arrivando a pure giù. No, sei fortissimo. Potresti essere tipo Luca, guarda, che Luca arriva forte qua. Io a Luca dici che le arriva in saturazione di cantero voci. Oh, via. Vabbè, non mi dici così. E c'è Claudio. Ancora non è entrato nessuno. E io questo l'ho smontato, l'altro giorno gli ho dato una pulitina. Non so se abbia migliorato anche per questo. Una spazzolata alle giunzioni dove non si date. Un po' di spray miracoloso. Avanti Claudio, se ci sei. Io riprendi un attimo con Antonino. Ciao, buonasera, che arrivo subito. E anche tu hai migliorato qua. Adesso mi arrivi 7. Quindi qualcosa l'antenna è successo alla mia antenna anche. Se te lo succede mi sta arrivando a 9-10 qua. Qualcosa è migliorato. Era molto oscillata, specialmente la massa, quindi non perdevo molto anche recensione credo. Ti ricordi che non sentivo nessuno io? Anzi sì, 9-20 per l'esattezza. Ma non è proprio più l'antenna allora, non è proprio così. Mi si rivendi prossimi. È sempre la stessa antenna, anzi ne ho tolto lo stilo d'acciaio che mi serviva per l'antenna, diciamo, della barra mobile, e gli ho messo un pezzo di ferro, di filiferro zingato un po' grosso, no? Gli ho dato una bella addrezzata, gliel'ho piantato. Va bene, non c'è problema. Io lo stesso me l'ho piazzata quell'antenna che c'avevo come antennino, no? Me l'ho piazzata in macchina. Arrivo ancora giù pure in macchina l'antenna. Sì, no, quella in acciaio è più leggera. specialmente se fai fuori strada che toccano i rami, con quella frusta nera non piega, si stacca la base magnetica, con quella d'acciaio invece si presta di più. E poi gli ho dato una pulita con la lama d'acciaio, con l'amico la lama, con la carta abrasiva, laggiù con tutta pulita, zero di stazionari, andava benissimo. Io questa ho zero però con l'accordatore. No vabbè, in macchina stavo dicendo, quella là non è a stazionaria, è in macchina. Gli ho controllato bene perché lavora in corto circuito il corto, gli ho controllato e poi l'ho piazzata. Qua, una relva. Ma sono migliori quelli che lavorano in corto? La mia è la PLC 800, lavora in corto circuito, una 5 ottavi. A me è sempre andata bene. La usavo qua come antenino, non hai visto quanti sci. Ho capito, ma com'è che la codice è cortocircuitata col tester? Metti in corto i due poli? È logico, no? Deve fare corto per funzionare. Dopo la prova a vedere com'è. Mi ricordo di no però. No, la mia sì, la PLC 800 lavora in cortocircuito. Mi lascia la prova, mi prendo il test e la provo 5 minuti, da. Sì, capo. Attento, Rata Pignara, ci sei? Freduschi? Diceva, freddo dalla Russia. Facciamo pudiare di Russia, Rufretti, ma ci manda le nocche. Infatti. Ma Frank è andato a vedere, si trova lì in corto, chi s'anteneva Edu, e non si è fatto più intendere. Stava controllando. O Finocchi. Ah, amico, il Finocchio di Rata Pignara è entrato. Buonasera a tutti. Oh yeah. Io sono in pigiama perché ancora non è tempo di uscire. Col freddo che c'è, questa mi lascia la finestra la finestra aperta del bagno e quella dell'altro bagnetto, quindi l'aria passa tutta la casa, l'aria fredda. Certe volte mi chiedo se sia mancante. Così almeno ti si raffreddano gli zebedì. Mi si raffredda tutto. Così era in inverno, in pieno inverno con un freddo e vera finestra aperta. Ho detto, ma allora perché mi fai mettere la stufa se poi la c'è la finestra aperta? Oh, gli anziani, o li hanno presi e scassati e messi a casa serena. Vero no, Claudium? Devi diventare anche tu anziano. Se ci arrivo. No, ma certe volte non capisco cosa vuol dire questo di aprire il finestra da un estremo all'altro della casa per far entrare il freddo. Vabbè, lasciamo stare. Che c'era Franco anche? Ehi, arriva bene, gatta. Sta controllando a vedere se la sua antenna lavora in corto come la mia. Capito, quella l'ho messa in macchina, mi la PLC 800. Oh, ma le stazionali le controllate? Ehi, con questo qui le ho controllate. Non è altro che smettere funzionanti, no? Solo questo. E forse è meglio che l'abbia controllato con questo. Zero di stazionali, le ho fatto una bella pulita con la carta vetrata, lo stilo, a che la vista rugginoso. Oh, pure. Molto. Molto vissuta è quell'antenna, diciamo. E la mia ogni tanto, prima di tutto non ha mai preso pioggia, la mia. Quella della macchina. E anche se c'è un po' di ossido, di sporcizia, gliela pulisco col CRC. Col CRC, capito? Però il tempo, ce l'ho dal 2010 o giù di lì, 2011, però qualche puntino c'è di ossido, capito, sulle parti cromate o sullo stilo, però basta passare quello, bene o male funziona benissimo e non c'è né ruggine né coso. Anche perché quando piglia acqua, bene o male, l'acqua arriva alla bobina e quando arriva alla bobina dentro fa danno. Perché poi non sono sigillate, bene o male l'acqua filtra, capito? E ripeto, la mia non ha mai preso acqua, è come se fosse praticamente nuova. E la mia invece ha fatto la guerra, ha fatto quell'antenna. Era sempre fuori, in macchina, sulla cappotta, che cavolo. Gli hanno pigliato un po' guerra, in tempi di tutto ha preso quell'antenna. Aspetta che chiudo tutto, perché qua no, non è che me ne devo stare in giacca in casa, no, il colmo, aspetta che chiudo tutto. Eia. È un freddo. Chiaro Cristo, il congelagiano blu, l'Isabella, io. I Gamazisi. Allora, i Gamazisi. E se no che da il commissario avesse può fare tutti quanti i femmini che vedi. Mimì. Ehi, il dottor Augello, presenzievole. Allora, Mimì. Manco male che gli tu gli aveva a cantare. Sarebbe veramente un disastro. Il dottor Augello, sì. Era mal forte di quella, di quel coso, il suo poliziotto. Caldarella, non ti chiamo. Caldarella. Caldarella. E allora? Caldarella. Mi scusate dottore, mi è scappata, butto uomo, si chiude in praia. Allora, io già niente, la si chiude in praia, andiamo più giù, come ti fate? Sarà. Ma tu immagini se si viene a mettere davvero su buzzotti così imbranati? Io magari più duro che me, è che noi non lo conosciamo. E dai, alzati così. Non è più duro, sì. Ecco, chiuso tutto, però ormai il freddo è in casa e devo stare con la giacca, proprio ridicolo. Va bene, lasciamo stare, non voglio infierire. Cazzo, devi arieggiarla questa casa anche tu. Sì, ma non è che lasci da cazzo dalle 8 di mattina all'1 di notte di tutto aperto. C'ha delle fissazioni, mamma, che non so cosa siano, se è una malattia, cos'è, le macchine che va in capo. Sono delle fissazioni. E non è solo questa delle finestre. Vabbè, basta. Chiudo qua. L'una di notte, va bene di giorno, ma di notte le finestre sono male chiuse. Ma sai perché? Perché dice che i gatti si vogliono affacciare. Che cazzo me ne frega a me se i gatti si vogliono affacciare? I gatti devono fare quello che dice il padre a noi, i cavoli che vogliono loro. Questi gatti pure. Tu li mirati a uno a uno, li fai a bruto. Sì, no, li hai... Lo bucconi. Siamo ricchi anche dalla Filippo. Almeno. No, boccone no, caso a me me li mangio. Mamma mia, che sono domestici quelli. Allora, e tutti qua già, si arrangia Filippo e già mi vuole bene. Via. Bene, adesso non so se entrare adesso più tardi. Dopo che mangio. Vediamo, dai. Attenzione, Sassari, prego. Avanti, avanti. Buonasera, 751. Ciao, Claudio. Sono rientrato, scusate, ma ho avuto anche una bassa. Ehi, fra, ciao. Ciao, fortuna. È una decisione di poco di cose, eh. Saluta e basta. Come stai con questi, tutti questi cose, no? Non si dicono più. Adesso ti mando avanti a Natalino, vediamo se lo senti adesso. Vai, Natalino, per fortuna. Ciao, fortuna. Ciao, Natalino, buonasera. Adesso finalmente ti sento anch'io. Fuori dalla frequenza non riesci più a distinguere i timbri della voce. Lo sbaglio è Marco, dammi conferma. Sì, l'altro guasto che c'è, sì, è Marco, Marco Condor. Pure del guasto mi date, oi oi. È proprio disgraziato, Claudio. Sì, vabbè, in senso buono, va. Insomma, questo è un canale di guasti, quindi un guasto in più, un guasto in meno. Come sei, fortuna? Sì, uscito dalle gallerie, ero al telefono con Antonella. quello e si accende da vedere com'è la situazione, intanto so che a quest'ora siete su 10. No, sto sapendo me da Cagliari. Ah, Cagliari, ecco, il freddo c'è lì, come qua oppure no? Cagliari stava piovendo, sino Rizzano, poi ma com'era chiarito e niente, poi qua vedo che è un po' nuvoloso, forse si sta sporcando. Al sud sta piovendo, non mi va a dire, ma che ci serve a mettere un po' a posto le cose. Va bene. Franco, lo senti a Fortunato? No, sento che parla ma non riesco a capire niente. Dov'è? Che zona è? È nella 131 uscita galleria. Insomma, prima avevamo a Natalino che non sentiva, va, visi tu. Sai che è pure che cantenna, perché io non è piatto più, No, comunque ho migliorato parecchio, guarda, tu sei aumentato di brutto, no? Natalino, vabbè, ha cambiato l'antenna, ma tu sei a pari condizioni. E io in trasmissione ho migliorato qualcosa, no? In questi da 8 a 9, da 8 a 9, Santiago 8, modulati 9. La radio è buona, 5 è perfetta, 5 è perfetta. E Natalino 9-3 tra qua. Oramai è diventato il numero uno della costiera vecchia. Davvero? È un bel forte, un po' più meno di Marco, ma un pelino, Se parlano assieme non si capisce niente. Avanti Marco. Eia, ma Franco dov'è adesso? A casa o in macchina? Arriva a 9 più 5. No, sono a casa adesso, però ho smontato l'antenna ieri, l'ho tutta pulita, ho tolto lo stiro d'acciaio perché il terminale era praticamente l'antenna di una macchina paramobile e gli ho inserito un pezzo di filo ferro zingato, un po' robusto, al posto del terminale. Mi ho ripreso l'ossido che mi serve per la macchina, capito? E poi ho pulito i contatti dall'ossido. Mi è arrivata aperta la finestra, è una malattia. Buttare giù i gatti, Marco? No, non è per i gatti, no. A che piano sei? Rialzato. Fortunato l'hai sentito, Marco, l'hai salutato. Fortunato? Sì che l'ho sentito. No, salutato non lo. Ciao Fortunato. Sì, ciao Marco. Perché passo la radio, mi sta stato viaggiare informati. Franco, mi senti? Sì, adesso ti sento. Un segnale di uno oscillante, una radio di due. Inizia a sentirti con un po' di QSB. Io ti servo, sta arrivando qua a bomba, rotatore a libricco me. E adesso che ho perso di nuovo? Rotazione bricole, rotatoria bricole. Fortunato però non si è uscito, cosa c'ha col microfono? Non si è uscito Fortunato. Lui è a terra. Beh, io a dopo ci sentiamo, adesso chiudo. Anch'io chiudo che vado a lavoro. Avevo un'ora libera e sono rientrato a casa. In aeromobile non ce l'ho, quindi ci sentiamo più tardi o domani, ok? Saluto a tutti, riprendi Cla. Ciao Fra, buon lavoro, dai. Ci sentiamo dopo, ovviamente, quando rientri. Dove stai andando, Marco? Sei in camera, Dani. È presto il modulato, non ho voglia. Non ti abbatte. Ma sì, non ho voglia. Oggi va, tanto. La giornata è fredda, giro, non si può andare, perciò ci rimaniamo qua, Vediamo Fortunato, ci ha messo a posto il microfono, Fortunato. Non stai uscendo, cosa l'hai fatto? Quindi? Cosa, ma? Ho detto quindi? Non riesci a uscire di radio? No, stavo uscendo, non so che microfono sto usando, ma non lo sento più. Evidentemente magari si è caduto il viso della radio. Non lo saccio. E me Natali non mi hai detto niente, ma l'altra antenna per capirci funziona, gli hai attaccato il cavo, senti bene, sì. Eia. Devo cambiare la batteria. Devo cambiare la batteria. Sono arrivato in deposito, saluto a tutti. Ciao Fortunato, dai, ci sentiamo le cose. Quindi va bene, come mai si è sentito tutto lei Natali? A posto allora. Voleva più in alto la verità, però già ricevo. più in alto andava primo. La mettevamo più in alto, potevamo sì salirla un pochino di più, però stava bene lo stesso, ma non so frutti, saliva un po' di tutto un gomolo. Ah, non me ne frega nulla. Io sto cercando sempre con quella che c'è nella finestra, mica spreco antenne per le cose. Però mi emerge, ma non ti innanzi. Già sento lo stesso, io già sento tutti. Non c'è problema. Va bene, Marco. Eia, sono qua, dai. No, ancora non sono bello sveglio. Avevo voglia di stare bello sotto le coperte. Porca duccio mi. Questo purtroppo in camera non me lo posso mettere, in baracchino, non c'ho spazio. C'è spazio, se ti piace così modulare così sotto le coperte che stai bene, cioè avrai fatto lo spazio. Ne metti uno lì e basta, quello che usi di più. È un comodino, una cosa, capito? Uno spaziettino, un baracchino, cos'è, un alimentatore, cos'è da prendere. Prende molto di spazio e così stai meglio, come fa Gianni, capito? Metti nel letto tranquillo. E se no si può una mensola e se si pone l'alimentatore e il baracchino e così può modulare in camera, molto ci vuole. No, non ce n'è posto, il comodino è pieno di roba, 5 telecomandi, la bajour, il coso con medicine, la radiosveglia, pieno di roba. È impensabile mettere un baracchino anche se piccolo. Una mensola ti fai come ho fatto io, ma allora non ha alcun peso. Cosa sul comodino? Ma una mensola dove? A muro? No, non si può là. Non si può lì. Non va. Piuttosto mi porto il mobiletto qua di legno, piccolino, e modulo da lì, ma non ci arriva il cavo, mi serve una prolunga. Cavo, quanto te ne serve? No, non ne metto assolutamente in camera, non è posto da mettere il baracchino per me. Ma dove sei lì? Qualcosa per coricarti, non c'è tipo divano, che cosa? Già c'è il divano, ma è pieno di roba, c'è ancora l'albero di Natale mezzo buttato. C'è lo cuscini, c'è il trasverter, c'è il rosmetro uguale al tuo. Caspita. Ho detto caspita. Io mi ero attrezzato. Mi sono attrezzato di nuovo, che non viene. No, tu hai fatto un bel lavoro lì. Ma sono messo. C'è il tavolo vicino e sei. Capito? Va bene. Quando non c'è posto, io ho vissuto per anni così, accampato, sempre tutto ordinato, però ero accampato, adesso c'è la mia stanza e quindi insomma, sto bene. E a te io quando ero in campagna ce l'avevo in cameretta, poi avevo detto, avevo tutto. Beh, già lo so, cioè mi ricordo che eri organizzato lì. Eh beh, ci siamo goduti giornate anche troppo soleggiate, adesso ci tocca un po' di freddo. Vai bene. Cazzo, 9.30 mi sta arrivando questo finocchio di pesata pignara. Adesso sono con 4 watt, con l'omologato. Oh yeah. E sono moscio anche perché poi ho visto che non posso uscire perché ancora rischio di venirmi a capogiro se esco. Purtroppo ormai cos'hai oggi? Giovedì o venerdì? Giovedì. Oh, vediamo sabato se ce la faccio, se no pazienza, domenica o lunedì. Speriamo che migliori il tempo. Come per migliorare? Tra domani e dopodomani. Come non esserci freddo, dai. Capito? Perché le giornate non sono brutte, cazzo, però c'è freddo. E lei lo so, io stamattina quando sono uscito a portare il cane c'era un po' di freschezza, ma bisognava via il giubbotto e quindi l'ho portato a questo cane. Cazzo, sai cosa ha fatto Marco? Ehi, avevo comprato uno di quegli usi per rosicchiarseli, no? E lui se lo stava rosicchiando e gli ho detto: Conce, vai a Curto e prendigli l'osso che lo dai a me che me la mangio io. Come ti sei avvicinato, attacca a ringhiare un cane, tutta, compreso buzzinuso. Ah, ringhia pure il cane, così è. Te l'ho detto, come ha detto a Pomponio, picchialo con la pompa. No, l'ha ringhiata perché ha capito che gli stavo andando a prendere l'osso, non ha capito. Gli ho detto, Conce, vai, io l'ho detto scherzando, no? Come si è poco avvicinata, manco toccatela all'osso. Cazzo, si l'ha ringhiata. Io ho capito benissimo, ma il cane non deve ringhiare i padroni. Te l'ho detto, picchialo con la pompa, vedrai come lo educhi. Così da voi si arrenta pure a me. No, io Filippo metto la ciotola piena, ok? Vado, gliela tolgo e sta seduto aspettando che gliela rimetto. Si batte via, ringhiamo che ne devo colpire i denti. Se lo picchi diventa più cattivo, poi si avventa il padrone. Voi non avete capito, mi rugare esinamentami. Ho capito, però lui deve capire che tu sei il padrone, puoi fare quello che vuoi. Glielo puoi prendere, poi glielo puoi ridare, capito? Filippo c'ha una scuola, ma non è che è un cane trovato così. Quindi io lo prendo a mangiare, dico non toccarlo, non toccarlo e non ti avvicinare, lui si allontana, si siede e aspetta che io glielo rimetto, ma mangiando però glielo prendo, capito? Esci a nonno, esci, basta, boh, finito. Lui si siede e mi guarda, come dire, ma ce n'è ancora perché non me lo lasci, però non ringhia, non si avvicina nulla. Allora glielo accarezzo e glielo rimetto e lui va di nuovo a mangiare. A vederla abbastanza ricevi voce, forse ricevi pure più forse c'è l'antenna. Che cosa è l'antenna? Quell'altra che ci è attaccata. E viene uno a base, abbassando il volume e mi arrivando con la scala. Non metterci lì vicino, capito? L'antenna è in alto mia adesso, non è fuori dal tetto, prima non era fuori. Era filo di tetto, adesso è fuori dal tetto di un metro e mezzo. No, che era fuori. Vabbè, però non so se dicevi bene. Eia, uno fondo scala sta arrivando. Vedi, avete vedere, è uno più basso. Poi fate i ricevi, lui già ne ha fatti. A noi ci interessa questa, che sta arrivando fortissimo, 9.30, radio 5. Bene, bene. Vai Marco. Eia, io per un certo canto lì sono stato fortunato a abitare qua, perché se avessi abitato ancora in Viale Mameli avrei avuto l'antenna molto ma molto più bassa, capito? Se fossi stata sul fianco alla terrazza di mia zia al Traviscio, ma anche ti dirò di più, sul terrazzo di nonno sarebbe stata l'antenna molto ma molto più bassa rispetto a dove è adesso, capito? Qui in confronto è altissima, altissima. Non so se ti ricordi, Claudio, la ripresa video che avevo fatto. E dal terrazzo dove è l'antenna adesso ho ripreso anche il palazzo di nonno. Il terrazzo di nonno, e se tu lo vedi è bassissimo rispetto a dove è adesso. E poi in più l'antenna è sollevata, quindi voglia. Peccato per tutti quei metri di cavo, 50 metri quasi di cavo, che daranno una leggera perdita. No, non leggera. Fai conto che se perde 6 dB ogni 100 metri su questa frequenza, non lo so se li perda. 50 metri sono 3 dB, cioè il guadagno dell'antenna lo perdo io. Capito? e si annulla, è come se fosse un quarto d'onda isotropico, un quarto d'onda, dai, che guadagna zero. Dipolo isotropico, guadagno zero. No, beh, io ho la camicia, tutta calata, ne ho 30 metri. Francamente perché praticamente il commutatore d'antenna è proprio a terra, attaccato al muro, capito? Se fosse stato in alto, cioè l'antenna ne avrei avuto lo stesso anch'io, 40-45 metri, 30 metri ne ho, 3x9 27, no, lo sto dicendo, sì, 3x9 27, 27, no, non ci sono neanche 30 metri, non ci sono neanche 30 metri. Eia, qua purtroppo è al centro del terrazzo, quindi deve fare lunghezza a palantenna, poi deve andare al bordo del terrazzo, poi deve andare a sinistra sul bordo del terrazzo per arrivare all'angolo mio, poi c'è tutta la calata fino al balcone, al terrazzino lì, al balcone, là, che passa sopra, no? Passa sopra, non per terra sul balcone. Poi deve scendere di 1,5 metri per entrare alla base della finestra. E poi qua ne ho qualche metro accumulato. Ci ho qualche metro accumulato e arriva, diciamo, all'ingresso della mia stanza da letto. Ci vorrebbe una prolunga di 3 metri per arrivare al comodino, capito? Però non ne voglio mettere lì. Vabbè. Non c'è un problema, uno spezzone interno già si può fare, non cambia niente. Cazzo, che freddo, che freddo. Cos'è sta zozzeria? Cos'è? Aspetta, sto leggendo. Vabbè, roba agli asparagi. Una specie di mousse agli asparagi. Mousse agli asparagi. Poi glielo passo a Natalino quel video del terrazzo. Glielo faccio vedere a Natalino. Purtroppo non posso indicare qual è il palazzo di nonno. Ti dirò il minuto. Il minuto, casomai. Al minuto tale, il palazzo più vicino che c'è in basso è quello di nonno. Così si fa un'idea di quanto è molto più alto qua, perché c'è un dislivello tra via delle Mameli e dove sono adesso, c'è proprio un dislivello della strada, e in più ci metti anche l'altezza del palazzo, quindi è fatta. Beh, però già montata bene, ci arrivi bene a tutte le parti. E dove non arrivo già c'è lineare. Prima infatti. Che poi mica, aspetta, lineare aumenti quasi di 2 Santiago, è un bemmi, 12 dB di guadagno, 6 dB per Santiago, qualcuno diceva 5, ma dovrebbe essere 6, 12 dB in più mi sono un be, è come essere in direttiva mi. Beh, vediatevi nel questo, io sto per mangiare, dai, ritorno più tardi. Chiamo il cane, la torre è ringhiata. Allora, adesso non è presa. Che l'ha presa l'osso? Adesso non ne è là. Ciao Luigi, buonasera, infatti tu prendiglielo, falle capire che comandi tu, e dopo glielo ridai, capito? A vedere se ringhia. Allora, poi signore, ma si è uguale all'altra volta. Ma è più basso, prova. Sì, è più basso. Sì, Santiago 7. Prima di Santiago 8 con picchi a 9. Sto usando l'antenna con la mi. Come si dice? La mi. Quella piccola. La macchina? Sì, la furgone. No, quella che ti ha dato Massimiliano? Sì, allora. È leggermente più basso, sì, però dipende da dove sei, Ma lo stesso punto io uso quella, è un punto che si è perso, niente di che comunque. 6 dB in meno, Ruda mi ha detto. io ti avevo detto di tenere quella lunga che è migliore. Vabbè dai. Ma quella lunga che è? Che l'ha fatta proprio? da. Va bene, riprendo dopo che sto per mangiare. Ciao, dopo. Ciao Marco, dopo. Ciao Marco, ciao. Beh, non pretendere che quella ti possa fare, ti possa dare dentro Porto Torres, come fai sempre qui da me, ottimi segnali, tu vuoi l'antenna corta lavora in una maniera, l'antenna lunga lavora in un'altra, dice. Questo è dato di fatto, capito? Comunque arrivi bene, Santiago 7, con la 368, 8, picchia 9, capito? Arrivi, non c'è problema. Natali, lo senti a Gio? Natali, se prendete un cane Natali. Aspetta, che sta picchiando il cane. Il cane non si picchia, si educa. Questo è quello che dicono gli addestratori. Infatti, col giornale l'ha picchiato, no? Gli ha preso l'osso. Che glielo do quando voglio io, non quando vuole lui. E infatti, la torre ringhiandami. Non se non ti vuoi avvicinare che io subito una ringhiata, zitta che l'ha contato. Subito. Esatto, col giornale. Voi dovete temerlo il giornale, capito? Ma soprattutto dovete temere chi le deve mangiare. Capito? Non deve ringhiare. Anche quando glielo togli, assolutamente, se no io allora non deve. Ricordati, quando arriva il padrone il cane si deve pisciare addosso. Ehi cazzo, il mio l'aveva addestrato lo stesso così, però me non mi ringhiava. E adesso a lui l'ha ringhiata, però lui l'ha picchiata col giornale, perché lo sa che lo deve picchiare col giornale, no? Rimane a capo. No, l'ha cuto un giornale, che cosa? La giustizia ha cuto un giornale. Che ve l'ho visto della protezione animali. Stai zitto, tu se no ti tiro una musilata. Vi faccio arrestare tutti. Vieni, vieni. Lasciatelo stare il cane, quella lì, da chiesa di culendi. No. No, io gli ho comprato un osso di quelli per farsi i denti e gliel'ho dato stamattina e se lo stava rosicchiando e tutto e gli ho detto scherzando a Concetta, digli a Curta a darmi un pezzo d'osso che me lo mangio io, come ti sei avvicinata, la ringhiata. No, quello non lo deve fare, i padroni non li deve mai ringhiare il cane. Infatti la cucciugru giornale. Quello che gli ho detto io Gianni, io Filippo lo riempio la ciotola, poi come mi aveva detto l'addestratore, io vado, gliela tolgo e lui rimane fermo, manco si muove, rimane seduto, dico non la toccare, gliela tolgo, poi vado, gliela rimetto, adesso puoi riandare a mangiare, va e mangia, non mi ha mai ringhiato a me, ma con qualsiasi cosa, col pane, con l'osso, con tutto. E anche Taiso fa così, non ringhia, anche se gliela tolgo per pulirla a volte e cose, non fa mai queste cose. Cioè l'altro giorno però questa coppia si è posta male, non si è fatta adorare senza conoscerlo, lui gli ha allungato la mano e Taiso si è girato la musica. Se vuoi entrare o ti vuoi abbordare? No, già ti facciamo entrare. Sì, già, ma infatti anche Filippo fa così se non ti conosce, però non è tutti poi avvicinare un cane senza conoscerlo, il cane è sempre differente, però stiamo parlando di padroni, un padrone è un'altra guba, capito? No, io gliela tolgo piena, mentre lui sta mangiando, gliela tolgo proprio, lui si siede e aspetta che io gliela ridò. Avanti Massimiliano. Buonasera a tutti, K K. Ciao. Ehi, bizzona. Ciao Bulldozer, buonasera. Ciao Massimilia. Allora marra, io ho dato le quattro e per la sparizia. Ehi, grazie di lavare pure la terra, faccio con tutto. Ehi, fai così, c'è un falso contatto, portamela a che davvero Massimiliano, mamma mia, invece sta in chili, a chi non pidi la macchina e azzi, o altri giorni che andate a buttare tua moglie dalla mamma, sali, prendi la macchina e sali che te la controllo. Forse dopo lo può salire, adesso che sto aspettando, lo sono andato, capito? Va bene, avanti Bizzola. Sì, ma Filippo mica, sei un genio. Cazzo, posso non dire, anche io ho bisogno, scusa Bizzola, cazzo, basta. qualcosa a questo bisogno, B2 che ha fatto bisogno, ma bisogno, no? Allora, ah, la vostra non ci, ascolta a me, questo mi sembra la santella. Roba? Allora, qui in questo smitter mi fai 9,95, capito? Cosa puoi tenere la lampella di 80 centimetri? Se arrivi in 9,20. Gliel'ho già detto, qua ho perso un segnale, era 8 ed è 7, cosa vuoi? Anche Gianni con quella cotta, quando uscivo dal lavoro, aveva un segnale con quella. Quando piazza quella grande, aveva un segnaloni, e purtroppo quelle antenne sono così. Attaccati l'altra, ma ci vedi, attaccati l'altra, cazzo, staccala. Portami solo la radio, non mi serve niente, l'attacco io, la controllo. Cazzo, se c'è un falso contatto va controllato, perché fa così, mamma mia. Una fesseria, se avesse qualche falso contatto lì nell'aggancio del coso, TTT. Te la controllo, chissà chi non la dratti, meglio per te che non la dratti, arriva da chi? Arrangiati. Avanti Gianni, dove sei? Sì, io sono zona Predanita, dai. Ottava, no, Sant'Orso in questo momento. Oh Gianni, ascolti. Sì, che ti ascolto. Aspettare Gianni, il vostro rumbo. Ti ascolto, ma non tanto forte, Eugenio, è un po' bassino. Ma come mi sposto magari ti ascolto meglio, perché qua sono dietro un muretto, quindi magari adesso mi sto scendendo verso la stazione di Sant'Orso. Pagava. Comunque oggi va bene l'antenna, cioè sta andando bene. Giustamente in base all'altezza è il segnale, capito? Per esempio in questo baracchinetto qua mi fai 8 a picchi di 9. Ma stiamo parlando di una 2001 che è il doppio più lunga, capito? E vabbè, comunque va bene, io ti ascolto bene anche se fa una bella radio, poi. Che ne sta usando Eugenio? Un altro, una mini frecce, che è uguale alla Turbo 2001 piccola, là. Ah, alla mini turbo, là. Ho capito. Uguale, precisamente, che hanno le stesse prestazioni, solo che si chiama mini flash questa. Magari è stata malchiata così, e magari la stessa antenna. Trappa, trappa, uguale, precisa identica. Sai come fanno, no? Li comprano una casa e poi le mettono tanti marchi. Dai, li faccio andare, dai. Aspettate che do a mangiare il cane un minuto, arrivo subito. Fate girare, però, non siate addormentati. Dice, ciao Marco, riprendi Marco. Ah, Marco forse sta mangiando. Che c'è? Natalie? Sono qua. Io mi ho messo la PLC 800, quella che c'avevo come antennina in macchina. E penso che quella vada benissimo. Zero stazionarie, perché la c'è tutta una letta burita e la busi la giubia a casa che mangia. Ti sta mettendo in macchina Natale di baracchino? C'è un baracchino di quelli piccoli, un Goldatex, tanto batteri fari da. Gli ho messo la PLC 800 nella cappotta. Quella che avevi sempre, là. E quella che mi stavo usando come antennino. Ho preso e mi ho messo quella lì stamattina. Stazionare non ha, gli ho messo bene il corto, capito? La giù è da controllare, da Rudester, quindi dovrebbe funzionare alla grande. Io ce l'ho nuova, la PLC 800, perché avevo intenzione di prendermi la macchina nuova e piazzare quella. Poi non ho fatto nulla, perché ho avuto una spesa, allora ho lasciato perdere, là. Ce l'ho sempre lì, nuova. Ehi, già servono sempre, che. Infatti, si prenderà, dove se devo fare? Quella esce forte, mi la PLC 800, realmente metti io in macchina. Come la metto? Abbiamo fatto anche la prova delle due antenne, te lo ricordi? Che arrivano uguali il segnale. E io? E di luce quell'antenna. E infatti me l'ho ripiazzata. Invece di tenere la lampada, no, che è biliardo. E me la chiudete in macchina, non me la facevo anche in macchina. Già va bene, dai. Solo che è morta veramente la 27, non c'è più nessuno. Che stamattina ero qui con gli enti da darmi un controllo. Non c'era nessuno. Stamattina no, c'è questa ruota nostra la sera e basta, non è che parli nessuno, prima c'era sempre Mario Mao eccetera eccetera, adesso non v'è più, purtroppo. Ma manco camionisti si sentono nulla, prima sentivamo di niente, va, boh. Ma ci sono in ascolto, magari non rispondono, lo sai come sono i camionisti, parlano solo tra loro. Ah, così è. Ce n'è qualcuno qui che ti dà retta, se mai gli altri sono tutti usciti, fammi dare traete e basta. E non fatto neanche parlando tra loro ce n'era, nulla, nulla. Ho provato un po' di mattina, niente. Andare, dai. Io mi sto per arrivare a casa, adesso mi scarico la spesa, devo fare la spesa. Carico tutta la spesa e poi sono libero. Chiara gara. Natalie, la matta di Nevaria. Massimiliano. Aspetta, riprendo dopo, aspetta. Vittorio. Ok, che devo sistemare la spesa, ci sentiamo dopo. Eia. Vittorio. Cappa, sono nata lì, l'ho acceso adesso in questo momento, ho sentito la tua voce, ma che cos'è ripreso? Ehi, ho ripreso, c'è anche l'antenna sul tetto, come ti arrivo lì? Fortissimo, mamma mia, si è messo l'antenna, insomma, ti sei organizzato, adesso non so chi c'è, chiedo scusa per gli altri amici, ma l'ho acceso in questo momento, ho detto, ma ho 5 minuti e mi faccio una chiacchieratina se ci riesco, a te ancora. Cappa, c'è Claudio qua. Non penso ci sia rimasto altro nessuno per il momento. E la sera già c'è sempre gente su questo canale, vi tu. Ehi K, non da molto che non lo accendo, dai. No, saluto Claudio, non l'ho sentito ancora. Lo saluto comunque. Dai, saltoni, anzi, passo il mic a lui per sentire un po' come la simulation, perché so che lui è sempre ha un microfono bello poderoso. A te. Ciao Vittorio, buonasera, ben sentito, io sempre così sono. Non cambierò mai, non ho mai cambiato. Sempre questa è la radio. Capito? La radio è sempre questa, funzionante, la lasciamo stare sino a quando funziona. Cappa, ben sentito, tanto sì, qua sono 10, noi facciamo ruota, salutino la sera, sino all'ora di cena ci siamo sempre, quando vuoi, ci fa piacere sempre salutarci. Ok, riprendi con Natalino, vai un attimino Natalino che sto sistemando il cane. Scusa, credevo te ne eri andato anche tu, capito? Stavo facendo cose, credevo che te ne eri andato anche tu oggi. Vittorio è a Canica, lì sono a Canica. Aspetta un attimo, te lo mando avanti se ti sente. Lo senti a Eugenio, Vittorio? No, negativo, non l'ascolto proprio, no, non lo so, da dove stiamo donando? Molto lontano, che zona è? A Porto Torres. No, non lo sento proprio, negativo, a zero completamente. E quindi, boh, non lo so, fammi da ponte se... E cosa, che apparato sta usando? Ah, il 3009, sentito l'hai tu? No, non l'ho sentito, però il 3009 so che è un apparato abbastanza tranquillo, dovrebbe arrivare da questa zona qui, perché vabbè, per me il portatore è negativo, lo so che non ci arrivo neanche io lì, perché sono sul versante di Monte Oro verso questa zona, e quindi ho questa collina più alta di me, e quindi non il portatore è negativo. Però se lui mi ascolta, mi sembra molto strano, perché il produttore mi pare che non mi ascolti nessuno, per quanto mi riguarda. Fammi da ponte tu, Natalia, a te. È in macchina addirittura lui, figurati, e ti ascolta. Lui è in macchina, ma non riesco a capire, bisogna vedere che zona è. Non lo so in che zona è lui. In che zona sei, Yuji? Ma non ha parlato. Sei Eugenio? Nisba. Io che non... evidentemente è una zona negativa, là, dove sei in macchina, cioè come spostandosi ci sono quei punti di negatività. Come va Natalie? Non ti ho più sentito, caspita, neanche a... io avevo perso poi il tuo numero e niente. Ehi, dimmi oggi. Scusa, non c'è anche più fuori. A vedere in che zona sei, perché lui è negativo per Porto Torres. Io sono all'ingresso di Porto Torres. Ha detto che è all'ingresso di Porto Torres, capitola Evito. No, non lo sento proprio. Beh, all'ingresso di Porto Torres però già, comunque un punto altino. Però se già comincia a entrare in città, per dire, è già bassino e quindi è una zona... Poi in macchina, vabbè, in auto, no... ci vuole un'antenna, una volta avevo sentito un certo Alessandro, mi sembra, da professore, ma aveva un'organizzazione di antenna sul tetto e quindi una radio anche buona, e lo sentivo, ma bassissimo, Radio 1, figuriamoci in macchina, no? È negativa quella zona per me. Tu. E quindi hai perso sia il cellulare che quello di casa. Certo, no, quello di casa ce l'ho, ma non ho chiamato due o tre volte e niente, non rispondevo nessuno. Perché forse l'abbiamo cambiato. Vecchio, che c'ha, daglielo l'uomo. Il numero suo adesso non lo so dove ce l'ho. Aspetta se trovo il numero tuo. Se trovi il numero mio, agganciamelo, mandami un messaggio. Aspetti tu che guardi. Ok. Perché io ne avevo pezzi, mi si era crepata la scheda e avevo perso tutti i numeri. Perché bisogna scriverli in un'agenda, oltre che in quello del telefono, perché può succedere qualcosa, non acciatti, sai? Allora, purtroppo bisognerebbe proprio scrivere tutti i numeri in un'agenda, in maniera tale che quando ci dovesse capitare una discrepanza, se si può dire, al telefono, almeno li hai tutti i contenuti di là e te li puoi recuperare, perché molte volte mi è capitato che qualcuno mi chiede e ho perso il numero, ha perso il telefono addirittura, quindi la scheda non ce l'ha più, però i numeri sono irrecuperabili, la scheda può chiedere un'altra scheda con quel numero e vabbè, però i numeri come fa? Quello vecchio l'ho perso, perché ce l'avevo scritti anche io, ma non mi rammento, c'avevo anche il numero di casa tua, te no? Ma tu Facebook sempre ce l'hai? Certo. Aspetta un attimo, accendimi il computer. Non so se ci sono altre frequenze, magari non vorrei impegnare la conversazione. Se c'è qualcuno, entri pure tranquillamente. C'era Claudio, ma mi pare che si è sentato. Ehi, che sta sistemando il cane, magari gli sta dando da mangiare a quel cane, capito? Mi, lascia lì, io te ne leggo. Lascia lì. Adesso aspetto che accenda il computer, un attimo. Barabà, Cici, ecco qua. Tre galline sul comò. Sì, che si chiamavano Marco Condò. Ma mangiando, sì, ratta, mangiando stai. E Vittorio che è andato? Vittorio è qua. Ehi, sì, Natalie, sono ritornato. No, mi sono aspettato ma un minutino perché avevo una cosa da lanciare nel computer. Sono tornato, come sono qui. E io stavo accendendolo, ce l'avevo spento, capito? E ho già il telefono. Cosa è il telefono, Natalie? No, è il computer. Beh, colpi senti, niente senti dal 20. No, negativo. Bene, meglio così. Oh, yeah, questi computer che là, per carità. No, già non mi viene leggermente a me col computer, non vedo. Mi spento, io lo accendo. Due volte alla settimana controllo le mail se c'è qualcosa che mi hanno comunicato, perché anche l'azienda mi manda i messaggi lì e poi lo torno a spegnere. Non mi interessa manco, misericordia, a me non sto a pasticciare io con queste cose. Beh, certo, però chi è amante di altre funzioni è chiaro che deve rivolgersi purtroppo al computer. per la musica, eccetera, eccetera. Si è ubriacato, purtroppo ormai è un po' come il cavallo che non può stare senza mangiare la sua erba. Non mica te li ho mandati. Ma aspetta, ma sono in Facebook adesso, c'è un altro programma che sono lontano dalla, sono lontano una decina di metri dal computer, è andato lì. Comunque se l'hai mandato non c'è problema, però se tu hai il fisso mi puoi telefonare. Non ho il tuo numero. Vabbè, no, il numero di fisso no, perché anche perché non c'è nella guida, che mi ero cancellato, però nella guida il numero ce l'ho sempre, altrimenti non avrei internet, logicamente. No, vabbè, comunque se me l'ha mandato poi lo controllo. Ehi, uno e l'altro ti ho mandato. Natalie, chi è che chiama? Eugenio sono, adesso a casa. Ehi, cazzo, aspetta per se ti sente Vittorio. Vittorio, lo senti da casa a Eugenio? Allora fagli fare un passaggio. Basso, comunque sei basso Natalie, guarda, cioè Vittorio, sei basso. Sei basso anche qua a casa, dalle due parti, zona zero. Attento Vittorio. Vittorio, sentitela. Natalia, no, tu stai parlando tu. Ho detto se l'hai sentita quando ha parlato. No, negativo. Non ti ha sentito, no, Eugenio. Ma che antenna? Una Mantova 1A. E quando mai non riesco a arrivare a carica? Facci. È in una zona bassa, Non mi sentono. No, negativo, basso, basso, dice che ti sente lui. E tu che non senti a lui? Beh, io non è che sono proprio a carica, sono molto più alto di carica. Diciamo che sono almeno una ventina di metri più alto, perché sono in una collinetta. Però c'è lo ostacolo del Monte Oro che mi è dietro, alle mie spalle, che mi ostacola questo messaggio. Ehi, già lo so dove sei tu. Gliel'ho detto che sei negativo per protettore. No, ma io lo sento, lo sento. Perché non c'è QRM, però lo sento anche chiaro, basso, però chiaro. È lui che lo sente a me. E tu, cazzo, non ce l'hai un bulldozer, qualcosa del genere? No, il bulldozer ce l'ho, ma per aumentare la mia potenza, ma è inutile che accendo quello se... posso accenderlo, ma è inutile che se non sento... in ricezione non ce l'ho il bulldozer, ce l'ho soltanto in trasmissione. Ah, è giusto. Cioè l'ennare, già lo sai quell'ennare che c'ho, no? Il 2000. Poi se l'avessi data a me quella, tanto tu non te ne fai nulla. Ma va. E il 2002 del Tagia l'hai visto? Non l'ho visto, no. Non lo sapevo neanche che ce l'avevi, io ti ho fatto la battuta. E questo è un po' vecchiotto, l'avevo preso tanti anni fa. Oh, scusate, prendo tra un po', Natali. Eia, ok, Gigi. Io ti sento comunque. Sì, vabbè, già lo so che adesso già sentiamo bene. Ti devo restituire quell'antenna, amico, mi è piaciuta la PLC 800, quella che avevo come antennino, amico. Che quella è una belva. Sì, ma non c'è problema, non vuoi. Tutti dimmi. No, ce l'ha piazzata, ero curioso di sapere come andava. Mia moglie mi ha detto che uscivo basso. Mi ha sentito stamattina con quell'altra, dai, un'altra cosa, un'altra gubba. Ma io lo sapevo. Quella che io... come dal giorno alla notte quando la usi in macchina. È come quella 2001 che avevo visto sul furgone. Già lo so. Va bene, aspetta, ci vediamo, ti la pongo in macchina, non ho problema, non è urgente. Anzi, non è che insomma ve li posso più tanto. E già è nel cofano, quando ci sentiamo che siamo vicini, te la restituisco. E io cosa me ne faccio? Lo stesso, non me ne faccio nulla. Ma la base ce l'ha, sì. La base è quella che c'avevo. Se ti serve la base, ti do quella che avevo io in macchina lì. Ma non è che la base non andava bene, no? No, io andava bene. Cazzo, non andava bene. E già ci metteremo d'accordo. Non è, ti ripeto, non è urgente. ok. Ripeto troppo. Eia, già siamo qua. Eia, siamo qua. Comunque non sento nessuno da quel canale là. Meglio, Anthony, meglio, così. Non ci sono disturbi e siamo a posto. Meglio così, evidentemente quella piccolina si attirava il QRM, capito? Eia, no, ma non li sentivo neanche con la piccolina, no. È che c'avevo disturbi, mi. Non splatter. Vabbè. L'importante è quello, così si evitano tante cose, vi capito? Visto che loro hanno preso questa decisione, non la nostra, meglio sempre evitare discussioni. Ma compriamo niente. Evidentemente sì. Già entra quando finisce di mangiare. Cappa. Mi c'è stato un break qua. Quale tale sono al telefono? Avanti. Chi sei? Ti sento bassa. Chi sei? Guarda, ti sento bassa. C'hai due bip, sento quelli. Però la voce è incomprensibile. Natalie, io sono qua. Tutto a posto. Hai trovato? No, l'ho acceso, adesso si sta avviando un attimino, questo è lento, un po' vecchiotto, No, sto usando il piccolo, e quindi un po' lentino per far uscire tutta bene la situazione. Poi lo controllo, entro in Facebook e veniamo. Sì, ho mandato il tutto. Perché io ho perso quello fisso tuo e il cellulare, perché mi si era crepata la scheda, ho perso tutti i numeri, non ho perso solo il tuo, no? Ma come si è crepata? In che senso? Che non me la leggeva più, si è bruciata a me, e ho perso tutti i numeri, non ho potuto recuperare nulla, infatti piano piano me li sto recuperando tutti, però adesso me li scrivo. E certo, vanno scritti tutti in un foglio di carta, li scrivi tutti, li devi conservare in maniera tale che quando dovesse succedere, vabbè, qualcuno lo cambia, eccetera, perché, ma almeno hai gran parte, diciamo, di tutti quanti per reinserirti nuovamente. Ma deve essere che questo cavolo di schede della Vodafone sono difettose, non è la prima che mi si è bruciata qua. E ho dovuto sempre pagare o tu io la fammi dare la nuova, grumate il numero, perché quel numero non lo posso perdere che ce l'ha un bel di gente. Ma guarda, lavoro con un sacco di problemi, e io ad esempio mi sto lamentando, ho già fatto una lamentela alla Vodafone, che quando sto parlando, dopo un minuto esatto, mi chiudono la comunicazione, e non è una volta che lo fanno sempre con tutti, non con un telefono, però sono sempre con lo stesso numero, con diversi numeri, dopo un minuto esatto mi chiudono la comunicazione, poi devo richiamare. Ma perché fanno questi scherzetti? Ti dia. A mia moglie per esempio mi era bloccato fino al giorno 26, perché lei ha finito tutti i minuti e quindi non può telefonare, lei ce ne ha 20 euro nel telefono, però glieli scalano da quei 20 euro se lui telefona, capito? Non telefona sul torrente, se no ti mi ricala negli archivi. Ma c'è qualche cosa che non va, è un furto continuo. Eppure Cata li fanno così, ce l'ha il 26, gli scalano i soldi, quei 20 euro che lui ha fatto la ricarica, no, gli scalano e gli attivano attorno alla promozione, perché lui deve stare attento a non mangiarsi tutti i minuti, capito? Se no da voi non può telefonare. Sì, ma quello mi sembra giusto, però il problema non è quello, il problema è che tu metti ad esempio, se hai 10 euro ogni mese da mettere per la ricarica, tu ne metti 10, poi ti richiamano dicendo che ne devi mettere altri 10 perché non compensa non so che cosa, è tutta una truffa, guarda, è un casino. No, vai al di sotto e quindi loro te ne vogliono altri soldi per attivarti la promozione, così. Ma aspetta, come fai ad andare di sotto? Se tu devi spendere 10 euro al mese, quei 10 tu li stai praticamente a fondo. Arriva al momento della scadenza, il 26 di ogni mese scade, e tu il 25 carichi, ebbene ti fanno il giochetto che poi non puoi più ricaricare perché non hai credito. Ma come? Se lo messi il giorno prima, come fanno le 10 crediti? Perché tu devi ricaricare quando, vuol dire che sei andato al di sotto, se ti inibiliano di sedina, compreso. Noi con 10 euro la musica fa 20 euro ogni avuccia, no? Tu quando ti scava allora ricarichi. Ma è tutto un imbroglio, non finisce mai, tutti così sono, vai con la Wind è lo stesso, vai con la Team, non lo so. È un imbroglio, già lo so, infatti gli ho scaricato quell'app da mia moglie che gli dice tutto, praticamente dice quanto spende e tutto quanto, così non la possono più fregare, infatti gli ho detto, mi prova a mandare un sms, tac, e veniamo i caralli, te l'ho detto, visto cosa fanno? Quindi lei adesso fino al 26 non deve telefonare con quel telefono, se no gli tolgono dal 20 euro che lei ha. E anche quello è un bel giochetto. E allora, poi cosa arriverà lì? Sì, ma le inventano tutte, sono delle opzioni che purtroppo non c'è nulla da fare, comandano loro, tu vuoi le comodità e le devi pagare, ma te le fanno però pagare perché queste promozioni sono tutta una truffa, alla fine devi purtroppo soccombere tutto quello che vogliono loro. Ehi, senza gli agenti non telefono, già le due bizzarrani. No, bisognerebbe che si trasferissero tutti a un ente, se si può dire, e vediamo un po' gli altri cosa fanno, se si ripiegano. Ah, è tutto un casino, guarda, sono dei ladri. Lo sai che invece di prendere 12 mensilità, se ne prendono 13 con la scusa che ti tolgono quei giorni al mese. Ma lo sai, sono delle truffe belle e buone. Sì, perché devono comprare consente, è tutta una storia lì. E allora? Aspetta, mi hanno chiamato Natali. Già sono qui. Chi è che è entrato Natali poco fa? Ma una ragazza che aveva due bip, forse era la sorella di Pomponio, ma non l'ho capito, no, la voce era incomprensibile. C'aveva due bip, mi sembrava l'apparecchio di Pomponio. Cos'era? La sorella di Antonella? Guardati, se era lui, però era bassa, è incomprensibile la radio, capito? Perché stiamo durando con quell'antenna che non è della 27. Sì, cavolo, e allora cosa pretendi, la intendi io dai noghi? E arrivano le 10 qua. Ma si deve fare una prolunga e si mette l'antenna del tetto lì giù. Ma sai, ora fa una prolunga a acquisizione agli ossi. Magari con un commutatore d'antenna. Ma infatti deve mettere il commutatore d'antenna. Quando è su usa la radio, l'antenna di su. Quando è giù, radio spenta su, commuta e si porta l'antenna giù. Ha giù fatto io. Se no bisogna dire il commutatore, ce l'ho uno qua. Che commutatore è? Ho un commutatore a due vie. Allora normalmente deve essere lì comunque. Un commutatore a due vie va bene, gli mette o l'antenna di su o l'antenna, cioè o il baracchino di giù o il baracchino di su, l'attacca all'antenna, a 6 euro. Certo, un ingresso antenna, due uscite, una su una giù, si può fare, come si può fare? Mi ce l'ho qua, un commutatore d'antenna, coaxial switch, della CTE. Si può fare, no, non penso già ce l'abbia lui il commutatore d'antenna, no? Già ce li hanno nelle queste cose, e che magari non le vuole fare, capito? Ma l'impugno RG58, mi buono, va a fare a prelunga. No, io qua se ne vuole. Quindi anche io RG58, sopra. Non è un problema quello. Io beh, dipende cosa vuole fare, ma non vuole. Rompere le scatole. E cosa gli costa mettere una prolunga così almeno può modulare giù e almeno c'è forte. cioè, tanto che lo possiamo sentire. Cazzo, guarda, io incomprensibile proprio, No, ma non arriva, gli arriva a Santiago 7 a Marco. Che siamo più vicini, capito? Anche qua arriva la bassa. È 960, Antonello, con l'antenna grande. 995 arriva con quella lì, ma è un'antenna di barca, capite? Ma lei è vuota e marina? Non so, ma se è un'antenna con la 27 di barca, se è un'antenna marina, non so. Così ha detto lui ieri. No, che io per la 27 ce l'avevo, quella marina e la budi lampa in terra e scia verso buru, ci serve più io. E ce l'avevo nel gommone io l'antenna marina per la 27. Quella lì vuol dire VHF. Non so, ma è messa magari in una posizione balorda, capito? È messa in una posizione balorda, magari è messa dall'autostrada, se invece la mette dall'altra parte magari esce più forte, non lo so, non l'ho vista. Vabbè, già avevo domandemmo quando entra a casa sua. Per pagare, sempre 20 watt, sì. Sì, sì, sempre così, Non c'era così, 9.30, sì. Va bene, va bene. Ottimo segnale. Mi aspettavo qualcosa in meno, invece veramente un ottimo segnale c'è qua. Qua era tutte le parti. 9 più 30, pieno, bello. Ehi, a Vittorio lo sento sparato, beh. Bella voce. Vabbè, Vittorio ce l'hai di fronte. Vittorio ce l'hai di fronte. E lì, adesso con calma, capite? Avviso una borsa, facciamo un altro travaglio, aggiungiamo altri due elementi, un po' più grossetti di quello che c'è, le facciamo superare la casetta, quello lì ci sono le antenne TV, capite? Un paio di tiranti, e lì a posto, ed è a 4 metri, adesso si è a 1,5 metri dal tetto, ma la tiriamo ancora più su, Eia, cosa ti volevo dire? Anzi, mi ci dura di capo. Volevo cazzo. Vabbè, là, già te lo dico un altro momento. Eia, quasi quasi hai fatto male in atteria, non lasciarne un paio di metri di cavo, lo sai. Perché se la tiriamo su, cazzo, l'hai fatta a misura col cavo. No, è più lungo, Oh, gli hai lasciata qualcosa? Eia, e se davvero una brunga, non sai a farla, mi viraggio, rugavo in oggi. Non c'è problema, ma non ce ne vuole brunga, penso. Perché non è giusto, ce n'è. Sì, vabbè, anziché metterne due, li metti, ne mettiamo uno, la due metti, già è sufficiente lo stesso. Giusto per eliminare quella casetta, mi hai capito? Per farla salire un po' di più. Vabbè, adesso il lavoro più grosso è stato fatto, non ne abbiamo problemi. E infatti, poi arrivo io in un Arugu. Sì, Arugu, ma io non avevo dubbi che l'antenna funzionasse molto bene. Molto, molto bene funziona, sì. Sì, che la prendo anch'io una. Tanto c'è una calata su, che scende giù. Singola, l'ho tenuta di scorta, l'attacco diretto al DAC, così non sto a cambiare, a commutare. E infatti, è quello che lo usi per altre cose. E vabbè, un po' uso questo, un po' uso quella là, però il DAC non lo sto usando perché non devo attaccare l'antenna, attaccarla lì, una rottura in base, capito? Però invece quando c'è l'antenna diretta lo accendi e parli direttamente. A me viene male perché l'antenna sta lì e sono tutti cavi dietro, un casino, e sono gli HF, le V, le U, proprio porta tutto, quindi mi ha fottuta, giusto per fare due chiacchiere già va bene. E a voglia, ma tu non manchi mi sai che cosa male a me. Lo so, io non ho bisogno di grandi altezze, mi metto un palo da 2 metri. E ce la metto a fianco alla mappa, va capito che c'è un due staff già pronto. Il palo è già su, entra da solo è già su ed è anche qua dentro, 2 metri entra dentro pure. noi ci arrivano da Celdate. Capito? Si leva la grappia, sì, me la metto proprio, che faccio da montare, va bene, e una metto bassa, tanto a me non mi serve grandi altezze da qua, la manta faccia 4 metri di tubo, 2, 1 metro e mezzo sono attaccati al muro, il resto esce fuori, quindi a voglia. Esce una bomba con quell'antenna lì, poi è leggera. E quello è il mio problema, leggera, facile da montare, se la posso pure in punta all'altro sistema che ho, capito, invece di quello di 40, non è quello il problema, se la voglio tirare su, però poi avere più effetto la faccia a piedi. Infatti non conviene a farla assai assa. Cosa te ne frega? Adesso da quell'altezza dici che cosa male. Poi una buglia, una grande, una mali da testa da quando è veramente bene. L'ultima antenna, non costa poco, ma sì, soltanto io questa antenna, e non è che costa poco, e non è così fine, non c'è abbastanza robusta. Ma costa così molto, perché della Midland? Se tu la pigliavi di un'altra marca, e ci sono precise, costano di meno. Ah, ecco, infatti quello c'era l'adesivo Midland via. Vabbè, però è originale, è ottima. E la radiali ho visto, sono belli, belli grossi, lunghi, 1,30 m, ma va bene come antenna. Va benissimo, si assomiglia molto alla Super Regibus che io usai da lontano 75-76 a casa di mamma. Era fatta così, tre radiali, lunghi 1,30 m, e l'antenna era fine così. Infatti, avranno guppiato da ghiccia, fa palla. E poi lasci pure, sono passate antenne sotto le mani. La vi raccomanda il montaggio, la zona che hai, tutto, capito, quella abbiamo attaccata proprio, ma misurata l'avremmo Yoshu, non pensavo ammazzato tutto, cazzo si va via tanto cari e gliela abbigliava ogni volta, e invece un culo allucinante, zero di stazionari. No, ve l'abbiamo misurata io e Massimiliano, cosa no? Che gli abbiamo misurato lo stubro delle stazionali, l'abbiamo messo giusto. 76 era, no? 78? 76, lo sappiamo già, poi c'è la tabella lì. Ah, perfetto, misurata tutto alla perfezione. Infatti c'hai zero stazionali a tre spazi, segnale fortissimo. Fortissimo, segnale più alto che arriva qua, manco dalla veloce arrivano così, 9,30 pieno, sì, modulato 32, a volte anche 35, dipende come ti avvicini il microfono, va bene, segnalone. Abbiamo voluto dirti a Gianfranco, Gianfranco dove? In zona di Vittorio, così è? Gianfranco è lì, sì, più o meno, però non so se più avanti o più indietro, ma Gianfranco si arriva allo stesso forte qua, 9,25, 9,30. Io si può dire che non lo intendivo, va su, a zeta la di chi entra, che ridimo, si ne avvisa pure l'eddo. Beh, certo, sì. Gianfranco ci sei? Attento Gianfranco, Alfa Bravo, Abisese, non c'è. Oggi invece ci vuoi di buccia, non è lavoro. Non lo saccio. Ho offeso il cane, mi. Cazzo è sul divano, moggio, a chi l'ha cotto pure il giornale. E ne ha pigliato su muro. Adesso te lo do quando voglio io, vai! Sì, Filippo si offende quando lo sgrido, abbascia un capo, rimani imbalsamato. Dove stai andando? Vieni qua, no. Cosa c'è? Hai cibo, il maledetto, cazzo, sono le 7:10, è presto, no, ma c'è freddo il cromagisi, quando scalda la giornata ti porto. Filippo, cosa vedo, che vuoi sì? Ho sentito Filippo, mi sono levato le orecchie, però il dialetto non lo capisce ancora, bisogna che glielo insegno. Ahia, che è Pittina, insegnaglielo. minuti, no, che stanno alla pulita, fu questa bagno, vedi, e tu hai, sei, sì. Ti vuoi mandare, ti manca ma qui di stato. Filippo, ti aggrava il Valdà. Allora dai, ci dritti, si fa. E non c'era una gabbia di macchi. Andate, lì ci menando prima mi butta a Gegiari. Prima che divento guasto. Allora, Pippo, mi, chi c'è? Guarda la porta, sta bene, ci siamo, guarda. Tu che attento. E devi venire a Biru, a zitta. Io non so se ci sarà, mi ha mandato un messaggio. Sto aspettando la moglie. Così controllavo quella radio. C'è più di un sacco di gioco. Lavoro domani, sabato riposo, domenica tutta la vita, per chiarità, mamma mia, come sto. Ma domenica lavori perché? E io. Ah. Dimmi Giuseppe, male, stanco sono, poco fa sono rientrato, stanco. No, fortunatamente no, perché è vero, piovendo sta. E no, non sta piovendo qua Giuseppe, assolutamente. Ascolta, dimmi una cosa, ma tu il sabato mattina sei a casa o esci a fare commissioni? Ok, va bene, domani sera ti confermo per sabato mattina, dai. Così ci togliamo da mezzo questa cosa, perché intanto ho ben capito che di pomeriggio Giuseppe è un casino, è buco. Santiago sì, stai arrivando da Giuseppe, mi è un ottimo segnale per l'antenna che c'ha minata lì. Però vedi, tu lo senti basso a lui, perché dobbiamo migliorare la trasmissione. Adesso, sa, no, Giuseppe, ce l'ho in macchina, è roba tua, è inutile che me la tengo io, ho capito, è roba tua, l'ho ritirata e devo venire a portarla, non te me la tengo in macchina, quindi domani ti confermo per sabato mattina, ci faccio un salto veloce, te lo collego, lo provo e poi me ne vado, capito. Santiago City arrivando una palida da Giuseppe con la Grand Prix. Adesso lo sabato le collego questo lignaretto e così arriva più forte, lo senti bene anche tu. Ehi, ma lo sai cos'è? Lo devi convincere a prendersi un'antenna come la mia, capitola, che così si mette più forte, magari la bunimobilinaccio, figurati, dovrebbe arrivare un incanto qua. No, ma infatti l'antenna che hai preso tu per lui è ottima, perché c'ha quei cavallotti, si sfida la Grand Prix, si mette quella, è leggerissima, capito? Si mette quella lì. Adesso ho sistemato tutta la parte ricetrasmettitore, adesso appena arriva il tempo bello, le mettiamo con l'antenna lì, si ordina, le energy 5 ottavi, e lui vedrai come cambia. Cambia sì, a parte che è un po' più lungo lo stilo di antenna, 2 cm di antenna, non lo uso qui. Sì, ma per Giuseppe non c'è un problema, intanto lo mettiamo lì dove c'è la Grand Prix, non dobbiamo fare niente, togliere quella e mettere l'altra, perché quella lì è leggera, capito, c'ha tre radialini, va bene, sai quanto è bella quell'antenna che ha montato Natalino Giuseppe? Bella, non è ingombrante, molto leggera, però è 5 ottavi, capito? Quindi c'hai una resa maggiore. C'è una mano a piazzarla? Vengo anche io, magari Massimiliano, e vedrai se la piacciono in 5 minuti quell'antenna. Cos'hai detto Giuseppe? La Midland, la fa la Midland Giuseppe, ma è molto bella, Abbiamo piazzato Natalino, leggerissima, capito? Poi è facile da montare perché si toglie quella lì e si mette quella. Lì si può mettere quella lì, perché è leggera, mi capite? No, lì a casa di Giuseppe, casa di Giuseppe è un gioco, è che bisogna prima salire e sfidare quella, capito? Perché sono le tegole. E poi piazzare quella, passarla a uno, la mette nei cavallotti, la stringe e se ne scende, l'è fatto, lì è un lavoro di poco, capito, ci vorrà più a staccare quella lì, sarà tutta rugginosa, ma se gioca a pigliare lo sighetto e farà due tappezzi. Ma giù la maletta! Ah Giuseppe, quella sarà tutta rugginosa, no? Buonasera, ben ascoltato. Massimiliano, ti so, la parte TV, a cosa se ne frega la parte TV a noi, Giuseppe? La parte TV non dobbiamo toccare noi nell'antenna della TV, noi dobbiamo sfilare la Grand Prix e metterci l'altra, basta, non dobbiamo toccare niente di no. Se poi i cavallotti sono in acciaio, o meglio ancora, così smontano e li recuperiamo pure. No, non dobbiamo toccare l'antenna TV, no, Giuseppe, il palo non lo dobbiamo toccare noi, no. Dobbiamo solo sfilare la Grand Prix e mettere quella nuova, basta. Ma certo devo salire sopra il tetto, e sopra le tegole devo togliere la l'antenna, come faccio? Un elicottero sul cornicione, no, non dobbiamo fare niente, non c'è cornicione, no Giuseppe, cosa vuoi mettere? Vuoi mettere nel cornicione, la vuoi mettere il palo, meglio ancora, e a noi non ce ne frega niente del cornicione, di Gamasisi e di Duda, Giuseppe, non ce ne può sbattere di meno a noi, di come è montato il palo, di dove entra il palo, di dove c'è, ti ho detto io devo salire sul tetto, togliere i cavallotti dalla Grand Prix, staccare la Grand Prix e mettere l'antenna nuova, non devo toccare niente, il palo si usa quello che c'è, tutto quello che c'è, non ce ne frega niente a noi. Ah, è necessario abbassare il palo, ho capito, e beh non si può abbassare il palo. Non sento bene. Massimiliano, poca potenza c'è. Ho capito, e vuol dire ci toglierà l'antenna TV, si abbassa il palo, si piatta l'antenna del baracchino e poi si tira su e si rimette l'antenna TV, qual è il problema? Non abbiamo paura di niente noi, no, né di preamplificatori d'antenna TV né di antenne TV, capito? Sarà la volta buona che ti mettono anche tutto a posto l'antenna TV, non c'è problema, oh Giuseppe, fregatene, assolutamente fregatene, noi per abbassare il palo, come hai detto tu, perché il palo entra, è telescopico, c'è l'antenna TV attaccata, si toglie l'antenna TV, o si molla, non è che la devi togliere, si molla e si fa scendere il palo, capito? Se poi bisogna allungare il palo, me lo porto di scorta a un metro telescopico, vuol dire metto anche il palo nuovo, non ti preoccupare. E dopo quello che abbiamo fatto con Massimiliano e Natalino, quelli sono giochi di Carruzzo, vai Massimiliano. Sì, lì io l'ho vista come agganciata, lì basta mettere due staffe palo a palo con un altro palo laterale e non tocchi niente, se ne toglie la Grand Prix, capito, due staffe palo a palo e le metto il palo nuovo con l'antenna nuova, è tutto a posto. Ciao Giuseppe, non so se mi ascolti, Giuseppe, l'hai sentito Massimiliano? Giuseppe, mi ascolti? Ok, là, ciao, buonasera, ben ascoltato. Ho detto, lì facciamo una cosa, lì facciamo due staffe palo a palo, un palo nuovo e antenna nuova. Si può mettere anche, diciamo, la Grand Prix si può anche lasciare come seconda antenna. E l'altra un pochino più in alto. Ah, perché non mi abbassi le voci? No, vabbè, io mi faccio due foto sabato mattina, vado Massimiliano, che sono libero, ci faccio un salto, così le sistemo questo amplificatore e mi faccio due foto. Mi faccio due foto, capito? Ascolta, no vabbè, il pugno no, non è suo, va bene, beh. Ne parliamo sabato, Giuseppe, non ti preoccupare, che già la piazziamo, la mettiamo nuova con l'antenna, non ti preoccupare, avanti Natalia. E la riprendete voi che sto scrivendo a un amico per sapere quanto mi tocca di quella roba là. Aspetta, mi sembra che c'è stato uno che ha detto passare le voci. Chi è? Agitare un garraggio. Chi agita del garraggio? Più forte a me arrivi. Ehi, adesso sta facendo le orecchie di porco. Più forte era Zeddo. Ah, cosa di buono a far vedere se fa modulare? Ah, bello bene, eh? Però ho capito, più forte di me. Oioioi. Buonasera a tutti comunque, anche alle orecchie pelose. Va bene, va bene. Non sfugge col segnale, no? Maledetto. Io qua è più basso del solito, invece che è sganciato. Gappa gappa. Va bene, va bene. Ma lui, Giuseppe, ma ce l'ha già questa antenna o la deve acquistare? No, è tutto da comprare. È da comprare, hai capito? Da comprare, adesso sabato ve lo può, se vuole ordinare gliela ordino e vediamo un pochino. Anda bene, anda bene, avanti Sandro. Lascialo fare che sta lavorando lui, ma lui sa invece che lo disturbi, lui sta lavorando, lui sta ascoltando e lavorando, capito? Lascialo fare. Ciao Lugarie. Ma cosa pensi che io mi metta a pettinare le bambole? Claudio, ciao a tutti, ciao Sandro, ciao Massimiliano, non so chi ci sia, sono entrato Ciao Garie, buonasera, poi ascoltato. Sì, anche a voi, dai. Ciao Sandro, mi ascolti, arrivo ancora a Porto Torres. Scusate, è arrivata mia figlia, riprendo subito, ciao. E vai, Lugarie, lo cuomane. Certo che arrivi, non ci avevo l'occhio sullo smitter, ma già ti sento. Ah, cappa, dai. Ma cosa vuoi? Che me lo dico, Serracchino? Ti ho tagliato il tubo? E poi dico il numero di frequenza? Che ci ho fatto con muro? Hai finito? Vai che c'ho la moletta io. Scorcio la voce di Claudio. Vabbè, da Lugarie, tutto puoi fare, tutto. Ma non andare a cigane lo tubo a Natalino, sennò non è piatto più, Mettiamo un tubo idraulico. Allora, un tubo idraulico prendi. Ah, lui adesso so che ne taglio l'antenna veramente con la moletta, così impara a disturbarmi questo Lugariello. Vai, cuomane, vai. Dopo quando chiudi, no? Che non sia la cosa di col tuo numero e frequenza. E gli fai così che salgo con la moletta. Vado un po' l'acqua, devo scendere. Devo chiamare la questura. Ma te l'immagini questo Lugariello, mi disturba tutte le ore, non lo so io. Adesso prendo la moletta e ti taglio l'antenna, così impari. Ah, io marco lì, da. Ancora no, Ghisetti. Io mi sto guardando il telegiornale, ma non è successo niente ancora. Speriamo che non succeda mai. Lo so, se no siamo fottuti, Ma fottuti, solo una volta, dai. Sì, hai capito, Luca, devo mandare la questura a casa tua. La questura? La questura. Cosa vuoi, che dico il tuo numero di 4364, Ah, anche il numero ha detto. Adesso saliamo veramente, così impari. Vieni. Mi sto anche stancando di questo baracchino, guarda. No, ruba. Non ti stancare mai, non ti devi mai stancare dalle cose. Pure io ce l'ho sempre così, ce l'ho anni, capito? È sempre qua, rimane attaccato, tanto vai sui paghi. Stai calpando gli occhi, Ehi, ce l'ho sempre i soliti quattro disperati, io, mamma mia, è una cosa allucinante. Beh, stasera è entrato Vittorio, adesso cominciano a entrare, non ti preoccupare. Guarda, io sono un trascinatore, non ti preoccupare. Per il momento siamo 1-0, siamo tutti qua. Chi è entrato Vittorio? Chi? Vittorio Giove? No, l'altro Vittorio Volpe. E vedrai che entra. Adesso l'hanno chiamato. Ma dovrebbe entrare. È entrato poco fa. È entrato. Vedrai che già entra la gente, non c'è problema. Vabbè, glielo creo. Tigre, te sei fattente, Tigre. Ah, c'è che trova gli endiche. Lui ha il cervello che fuma, lui sta producendo. Produce troppo lui, capito? Produce anche quello degli altri. E intanto già vedete in mezzo, già facciate che... Ancora un pochino, mi trattengo, poi vado a portare il cane e poi di chiudo tutto, perché c'è freddo qua. Ma vado a una salone, che c'è più calduccio, e si rabbiglia in gomma di vostra mano. Allora, io andrò via prima, e tanto devo andare in bagno, poi mi attacco alla telegiornala, qua la finestra è di nuovo aperta, Incubi, va. È una cosa allucinante. C'è ma il gatto si vuole affacciare, so, me ne affuttiamo, ho freddo io. E vabbè, il gatto si deve affacciare, dobbiamo fare quello che vuole il gatto. E la gente si decide, si deve affacciare, ma qual è il problema? Si deve affacciare. Se il gatto è dentro casa, rimane dentro casa, se deve affacciare. si piglia aria, mi la picco pure. Devo lo stendino, non c'è l'aria che piglia. Ci sono alcuni massicinazzi di cucinemmo. E si affacciano bene. Diciamo, i fai dai cinesi, li rivendi e ti vedi un cappotto di ghiacca. Però ti danno il cappotto di gatta finto, però, sintetico. Ma i buzzinosi, la cerimonia erano due di gatti, che sì. Oh, signori, mi sto facendo la pupù addosso, devo andare in bagno, ciao, a domani. Ciao, ciao, cazzo, mi ha dato una. A domani, sono 17:30, devo esagire, tutta la notte in bagno, Alissa. Ma pigliati la brandina. Però una cena questo Marcolino, non ne posso fare, a casa nell'ana. Aveva ragione Falcone, quello è così, è diventato così una caliga con tutti, stava sempre facendo il gioco della calzetta. Per quello che è diventato così. E allora, fatto di grattare a Falcone nel petto. Veramente? Sì. Tanto gli auguri a Bogovè. Marcolino pronto, dove sei? Oh, iaia, cura a noi. Aspetta, c'è un altro. Ma me. Chi è? Avanti. Ecco, me la pariglia, sono qua. No, è entrato uno che stava fischiando. Boh, non so chi stava fischiando. Io non mi chiamo Bruscio. Ok, va bene. Allora, non mi stavo stando al cane. Uscire io mi sono portato in aria. Questo mi chiamo Bruscio, c'ho freddo. Bruscio, c'ho freddo. C'è freddo. I darà si congeleggia in bagno. Sei già mezz'ora, bevi. Attento, Marco. Allora c'è panicurista a Titi. È un gomo che puoi farà. Ma questo è... di gioca, bubu. Quanto ti arriva? 7 mi sa. Ecco, arriva a 3, quindi è più vicino a te. Succia, succia, e giro dei bibilistri. Ho chiuso la finestra, Antoni. Ho chiuso la finestra, troppo freddo c'è. Ehi, oi, oi. Già glielo ho detto cosa ha fatto. Allora è andato a farsi bagionare alla badrona. Oh, vabbè, fanno così. Anche Filippo quando mi aveva la bettolina e te c'è un gasino. Che vita mi hai? Yeah. Non potete fare manco questa stampella. Tu gli hai la giornata di Rubacone, il ballo, se no di... È freddo, no, lo sto sentendo. C'è freddo, sì. Perché gli è così, io lo chiamo. Ti chiamo, freddo. Gli anziani fanno così. E te l'ho detto a Filippo, quando lo sgrido, praticamente, è caso di Capobascio, capite, aspetta che io lo cerchi, però lui non ti cerca. Se io mi avvicino e dico, guarda, si è offeso, e dico, per te che fai da monello, allora mi ringhi, come a dire, ha perdonato mi hai. Sì, pure io vado così, l'ho offeso ancora. Yeah. Ma liscio sei, Daniele, liscio sei, Santiago 7. Vedi un po' quello che sta andando a Marcusa, tanto... Vai da 8 a 9 con picchi positivi. Guarda che c'è anche Natalino, se lo ascolti adesso. Vai Natalino. Ehi, se non mi ascolta ci butto tutto. Capo, me l'ascolto, sappiamo certo, è tutto rotto. Capito, vedi un po' come è stata questa di cambio. Io ti ascolto un po' forte. Strappa. abbi anche di modulazione. Tu Natali lo senti bene? Sì, che lo sento bene, un dissecco gatto amauroso. No, non arrivi bene, arrivi bene. Natali non lo senti bene, quindi? Comunque ce l'ho anche io, lecca, lecca, eh. Lecca, Ricambiato al 100%. Visto, ce l'abbiamo anche noi l'ecco. Cazzo, quello è bello con l'elicottero, cazzo. Oh, io lo uso solo a casa, osa. Non ne metto mai, ce l'ho l'ecco. Non è come il tuo, ma... Un attimino di bianco, riprendo subito. Bello, bello. Con l'elicottero c'era Gigi Vulcano così, cazzo. Fa un passaggio. Santiago 5 qua, però io sono in zona bassa, sono in corso Trinità. Dove sei tu, Dani? A picchi di 7 stai arrivando, però questo è avaro lo smitter, eh? Sì che ti sento ugualmente, dove sei adesso? Ah, figurati, arrivo anche a Sorso, cara gara. Ehi, perché ho piazzato l'antenna, capito, l'altro giorno. Prima uscivo un antennino, non se ne parlava neanche di ascoltare a nessuno. Un po' lontano, capito? Solo Sassari. Ripeti, Daniele, che stavo parlando con la 50. Sì. E vai a strappare però, mi, Daniele. Eia, eia. Stai strappando. E come mai stai strappando? Forse c'è il macchino troppo alto. No, prova a rifare un passaggio che non hai strappato. No, hai strappato attorno, no? Boh. Perché quel passaggio tuo non è strappato, sta uscendo bene, no? C'è qualche filo che sta toccando. Ma adesso non sta strappando. Ciao, ciao Daniele, plus. Eia! Stai strappando di brutto. Natali? Yes? Ok, come sto facendo? Bene. Hai la solita radio? Eia. Ok. Più alta, un po' più alta della tua solita. Sì, Giuseppe, ho ricevuto tutto. Ok, adesso lo guardo e poi te lo dico, ok? Ok, va bene Giuseppe, adesso me lo guardo bene, ok? Hai capito? Va bene. E chi è questo Nicola? Nicola Di Bari. Come mi senti Giuseppe? Ho capito, va bene. 2 minuti di bianco, vediamo un pochino, perché sto provando una radio, vuol dire che c'è un difetto. Ok, avanti Natale, riprendi. Io telegrama, per me sta andando bene adesso. No, tutto a posto, non c'ho, signor, ci faccio contatto, sto aspettando vai, se me lo fa, capito, vedere un pochino. Ok, io vediamo se manca. No, non dovrebbe mancare. E se non hai trovato qual è il difetto? Mi sto guardando. Marco Zaccaraddu. K. Sto aspettando a ver se mi fa il difetto. Fino adesso non l'ha fatto. Aspetta, Natalia, che devo rispondere al telefono. Ehi, sta andando sempre bene. Dici, no, non sto facendo nessun difetto. Sì. Facendo. Allora, perché dai nobi e non le prendi. cosa vuoi che ti dica? Gigi Vanica, ma Gigi è un casino. Ma che vuoi che ti dica? Adesso la tengo in funzione, vediamo un po'. Perché quando scalda dovrebbe spegnersi. KK, non vuoi che ti dica, non lo faccio. Adesso è già quasi a 50 watt. No, 35 in portata bianca, 50 modulati. E non sta facendo nessun difetto. Magari si è risolto. O magari mi dimmi. No. Oppure sì. Marco ci sarà sceso, raga. Ma da lì puoi mettere in FM normale, senza toccare niente tu, non toccare niente, tu mi dici se esce bene in FM. Io tu non toccare niente, vai. Prova Nathalie, dimmi se mi senti bene. Certo che ti sento bene. Bella la modulazione, a posto. Eia, di lusso. Perfetto, passa in M. Cazzo, il cano. Ora, ora, yeah. bellica. Sono ecco il capo microfono, un ticket. Come va? Bene? Sì, più alto di segnale pure. Io sono 80 watt di portata bianca. Però scaldare prima, che vuoi, 120 moduati. KK. Ma stai a tolgo le viti da qualcosa, io sto quasi per cenare. Tolgo le viti da quella farinoria a vedere se c'è quella cosa dentro. Ma il controllo dove? No, tutto regolare qua. Non c'è niente dentro. Ah, vuoto, vuoto. No, l'unico freno che avevo attuato la V. Che cosa strana, cazzo. Boh, non te lo so dire. Va bene, Claudio, là. Io la sono un po' acceso, però mi siedo a cenare. E io, va bene, d'accordo, dai. Io sono qua ancora all'opera. Mi rompo. No, comunque qua io non ho niente di che. KK, là. Anda bene. A dopo, ciao. Ciao, ciao. Massimiliano, ma non riesco a capire dove, Giuseppe, il problema è quello, capito? Sì, pure, però voglio capire dove è il rifetto. Ma quindi te l'ho fatto anche a te, tu non me l'hai mai detto, hai detto che c'era il problema del microfono. Ah, ecco, il difetto te lo faceva col microfono da tavolo, col microfono normale non te lo faceva, però di più lo faceva col microfono da tavolo, capito? Ma io l'ho girata sotto sopra, dal massimo della potenza, sta bollendo la radio e non ha fatto nessun difetto, vabbè, però, siccome non lo devo usare io, lo devo usare Massimiliano, voglio che non faccia questo difetto, capito? Se la devo usare lui, la devo usare senza difetti, però io qua, ti ripeto, ce l'ho tutta la sera e l'effetto non li ha fatto. Non lo so, la radio è bella calda, è a 50 watt di riportante, 80 modulati, e l'effetto non è vero. Sì, a casa sua l'ha fatto il difetto, quando l'ha portata qua l'effetto non ne ha fatto più. Sicuramente sono io, ma è una cosa che non capisco, quale effetto mi ha fatto, ma vogliamo, continuo a lasciarla accesa, fino a quando vado a letto vediamo un po' come si comporta, per il momento sta andando bene. Questa radio fa questo difetto, l'ho presa, l'ho attaccata, c'ho l'alimentazione sul tox da 60 A, l'apparaggio è giusto, siamo un po' ormai... intorno ai 15 A. Cosa? Si è rotto le reti, e di quale reti stai parlando? Ma di quale comunicazione però, se stai lavorando solo in M? Tu sai quanti reti c'ha questa radio, che radio sto usando? Allora se non lo sai non puoi intervenire in discorsi che non conosci. Non sei preparato in materia. Hai capito? Ok. Non ti capisco neanche cosa stai dicendo, guarda. Comunque conosco perfettamente questa radio, quindi non dimmi che cosa devo fare. Sempre dal 1985 io uso il Kenwood e non sai quale sto usando, io ne ho 4 di Kenwood, quindi ma quale rifletto ricezione, ma cosa stai dicendo, è gettata a bagno, rifletto ricezione, c'è la tua zia, c'è la defetto ricezione, Valerio, ma manco lo capisco cosa sta dicendo, è tutto distorto. Thank you. faccio la voraccia, capito? Però io quando dico le cose sono sicuro di me, non è che parlo a mandala. Io ho detto aspettavo a montare con sacrificio, però aspettavo a montare. Abbiamo montato, adesso ci potrebbe anche trovare su un altro paio di metri, ma vediamo. Cosa Antonio che stavo leggendo un messaggio? Non è per l'abbia rimato, però Antonio non è modifico, quelli sono perfetti, è una bomba, va bene, per la 9.30 è più 40 lì, c'è un segnale, qui va bene a tutte le parti, basta l'antenna, esce un metro e mezzo dal tetto, però già va bene così, poi più avanti, vediamo un po', capito? Vediamo un po', intanto adesso il lavoro è quello, il lavoro è quello lì, non c'è niente da fare, a girarci al bar, per abbassarla non c'è più bisogno di scendere adesso, capito? Perché dalla finestra si muove al telescopico e scende da sola, capito? Però bisogna stare attenti ai radiali, tutto lì, comunque. È venuto veramente un ottimo lavoro, comunque non è finita perché c'era il vento, avevamo tanto, ma solo prendere come vedi è legata all'altra staffa superiore, quella inferiore è innestata, l'altra superiore è legata, lì ce la mette la staffa all'ottavo, capito? Adesso ci andrò questi giorni e lo finisco bene, e ce la metto l'anello nel tirante, ce la farò delle piccolette che la rendono più bellina anche da vedere, va? Ah, così è, quindi sì, già gli ho già girato i camasigi e quindi non vuole niente da te, e vabbè, è così è. Dopo vai, me ne vado a vedere un po' di TV, lascio tutto acceso qua, stavo controllando questo 43, che c'è questo problemino, però oggi praticamente mi ha dato buca, non ha fatto per niente. Dopo, ci sentiamo domani Antonio, ciao, stammi bene. Mettiti un commutatore su Antonio, quando sei giù commuti col cavolo di discesa, commuti e c'è l'antenna tua, no? Non ho capito, non possiamo poter far scendere il cavolo, però se non lo puoi far scendere non fa, cosa vuoi fare? Vabbè, così è, allora lascia stare le cose come sono, va. Ciao, sentiamo domani Antonio, stavi bene, ciao. Sì, domani, vediamo un po'. Sentiamo che si è attaccato da qua. Non so se è attaccato. Non vorrei che sia quello più buono. sul ghiaccio di vento. Ehi, ciao Antonio, alle prossime, ci sentiamo.